in primo piano. L'occupazione non riparte, questa è l'apertura non certo incoraggiante del Sole 24 Ore. Oggi, mentre Repubblica sceglie la politica, il premier in piazza contro i giudici, tutti gli altri quotidiani puntano sulla giornata dell'università. Università, tensione sulla riforma per il Corriere, studenti, bagarre e cortei per la Stampa, poi c'è chi mette come Libero gli analfabeti in piazza. Mentre il Fatto Quotidiano fa una controcopertina, cioè c'è il solito giornale ma rivestito da un'altra prima pagina, Viva la Costituzione, pubblica tutta la prima parte della Costituzione italiana, i primi 54 articoli. Spiazzateli, invece, l'invito dell'Unità. Vogliamo, poi ne parleremo nella seconda parte della rassegna stampa. Voglio partire dalle solite segnalazioni. La prima la trovate su tutti i giornali, la cito dal Corriere della Sera, è una indagine della Mangiagalli, la clinica Mangiagalli in Lombardia, a Milano è la clinica dove nascono più bambini in Italia, credo. La generazione delle mamme sole, una su cinque non dà il nome del padre, è una tendenza che viene fuori da questa ricerca molto interessante da Mangiagalli. Sono sempre di più le mamme che fanno figli ma non indicano il padre. Oggi in Lombardia arriva il segnale di una rivoluzione epocale. Intorno ai 35 anni il desiderio di maternità può essere talmente forte da spingere a fare un figlio anche senza avere un uomo al fianco. Ed ecco allora le statistiche della Mangiagalli dicono che una mamma su cinque, una neomamma su cinque, non ha dichiarato il partner al momento del parto. Ovviamente nascono discussioni, c'è chi dice come su Repubblica interventi a dire è il segno dell'emancipazione femminile, c'è chi lo vede come un dato positivo, c'è chi lo vede come un dato negativo. C'è anche un intervento di Chiara Gamberale, scrittrice, è stata anche voce di Radio 24, sul Corriere della Sera, quelle voci femminili che ascoltano il tempo al di là dei ruoli. Sta di fatto che il dato su cui discutere è interessante. Una donna su cinque, certo, forse a Milano, Milano è anche un po' all'avanguardia su questo, magari in altre realtà italiane no, una su cinque di neomamme alla Mangiagalli non dichiara il partner. E poi voglio farvi felici, voi che state andando a lavorare, vi voglio mettere un po' di allegria con la pagina 9 del Fatto Quotidiano, che è titolata con un sottotitolo così: senza vergogna, iPad e gioielli a spese dello Stato, la casta si fa i regali di Natale. Ecco, già dal titolo so che vi ho aperto un sorriso sul vostro volto. Dal PD al PDL, ecco, il Fatto Quotidiano racconta gli omaggi fatti tra i parlamentari che ci costano a migliaia di euro, perché spesso sono a spese dello Stato. Caro Babbo Natale, lettere smarrite dal Partito Democratico. Caro Babbo Natale, cara Anna Finocchiaro, dove è finito il mio iPad 64 GB da 800 euro? Un bel regalo natalizio con i soldi pubblici che concilia moda e tecnologia. Era un dono pensato dalla capogruppo del Senato Finocchiaro per il PD, già annunciato con una lettera a tutti i senatori il 26 ottobre scorso. La presidenza sta trattando con la Apple la fornitura dell'iPad 64 GB per i membri del gruppo. Non siamo ancora in grado di indicarvi la data della consegna, ma insomma sotto Natale, però vi vogliamo avvisare di tale scelta in considerazione dell'approssimarsi delle festività natalizie. Poi questo iPad al Partito Democratico è sparito, non è arrivato. Qualcuno dice forse la Finocchiaro, viste le polemiche, ha pensato bene di non fare più questo regalo, questo accordo con la Apple. Al Partito Democratico, alla Camera invece si lamentano: per noi sono un libro, l'ultimo libro di Laura Boldrini, Indietro tutta, è stato regalato questo, consigli di lettura. E invece sapete, Silvio Berlusconi nel PDL ha regalato iPad a tutti i parlamentari, pare, e alle 37 parlamentari donne un anello tricolore, tre fedine create da un gioielliere piemontese, prezzo 1400 euro. È che il Fatto Quotidiano fa sapere tutte pagate sull'unghia coi soldi a disposizione del partito, dunque soldi pubblici. Poi Ignazio La Russa indica la strada ai colleghi con un navigatore satellitare. Questo leggo l'articolo del Fatto. Maria Stella Gelmini ha ordinato casse da 6 bottiglie di spumante riservate ai funzionari lombardi del PDL. Insomma, questo è l'elenco che vi metterà sicuramente gioia: iPad e gioielli a spese dello Stato, la casta si fa i regali di Natale. Lo trovate sul Fatto Quotidiano. È il giorno delle manifestazioni a Roma, è il giorno anche dell'approvazione, forse, della riforma universitaria. Dico forse perché è successo un mega pasticcio ieri al Senato, tra poco vedremo cosa, e non è detto che si riesca ad approvarla entro oggi. Sta di fatto che dagli studenti della Sapienza è arrivato un appello al capo dello Stato, non firmi. Tra l'altro c'è, ovviamente lo sappiamo, anche inutile negarlo, un po' di tensione per quel che saranno i cortei a sorpresa. Questo è tra l'altro il titolo del manifesto a pagina 4, cioè gli studenti della Sapienza hanno scritto al questore di Roma, al prefetto, al sindaco Alemanno, apprezzando l'apertura al dialogo. Leggo dall'articolo del manifesto che si è concretizzato in centinaia di denunce per manifestazione non autorizzata, ma certo una lettera che annuncia i cortei saranno a sorpresa, e questo certo non aiuta a facilitare in qualche modo così un segnale di distensione. Tra l'altro il Corriere intervista a pagina 5, o meglio a pagina 3, scusate, Mario Martucci, oggi a 67 anni, detto Manina, era l'inventore dei Katanga, vale a dire i movimenti, insomma, che garantivano quel ruvido ancorché efficientissimo servizio d'ordine. E Paolo Foschini lo intervista e dice: io oggi ho 67 anni, ma quello che manca proprio ai ragazzi è un servizio d'ordine organizzato come il nostro, esattamente ciò che manca agli studenti. Peraltro modi ruvidi che lo stesso Mario Martucci non nega. Per esempio, ride ancora quando ricorda di aver fatto ingoiare durante un'assemblea del liceo Berchet di Milano un intero foglio con chissà quale mozione a un giovanissimo Gad Lerner. Ma quelle erano ragazzate, che c'entra? E poi Martucci dice: il contesto a essere totalmente diverso, i nostri anni, dico il 68, erano anni di protesta volta al futuro, fiduciosa in qualche modo, in effetti tutti noi abbiamo trovato lavoro in fretta, anche con un certo successo, l'insoddisfazione di ieri era politica più che sociale o economica, quella di oggi al contrario è una protesta disperata. Certo non aiuta a placare gli animi anche il fatto che sia stata trovata questa falsa bomba, dico falsa perché ormai è stato accertato che sia una bomba falsa, nel metro di Roma. Il Corriere della Sera con Rinaldo Frignani ne parla: pensava che qualcuno si fosse dimenticato quella busta sotto il sedile, l'ha presa, l'ha portata fuori dal vagone, una passeggiata di qualche minuto ai binari della stazione Re Bibbia, poi ha deciso di dare un'occhiata alla scatola nera di cartone in fondo alla sacca ed è rabbrividito, due tubi metallici, fili elettrici, un timer, sembrava proprio una bomba. Così il macchinista che ha trovato questo pacco che è stato lasciato sulla metropolitana, fortunatamente si è accertato che era finta, ma certo è un segnale non molto conciliante. È che c'è da dire, nel giorno delle manifestazioni, tra l'altro voglio ricordare che Oscar Giannino ne parlerà alle 9 e sarà ospite tra gli altri il ministro alla gioventù Giorgia Meloni. Che è successo ieri invece al Senato? Finale. E questo almeno leggo dal Sole 24 Ore. Finale thrilling per l'università. Pagina 3 del Sole, Eugenio Bruno. È successo un parapiglia incredibile. Quando è andata alla presidenza del Senato a presiedere la seduta Rosi Mauro della Lega, che raccontano tutte le cronache, racconta anche Eugenio Bruno sul Sole 24 Ore, ma c'è un video su YouTube che già spopola. Nel desiderio di accelerare l'esame che procedeva a rilento, la vicepresidente della Lega stava per riuscire dove nemmeno le proteste della minoranza, i cortei delle piazze e i ricercatori sui tetti erano riusciti, perché dichiarando erroneamente approvati 4 emendamenti dell'opposizione che avrebbero comportato la modifica del testo e la necessità di un nuovo passaggio parlamentare. C'è questo video, andate a cercarlo su YouTube, magari poi lo manderemo in onda, sicuramente. Di Rosi Mauro che continuava a dire: aperta la seduta, chiusa la seduta, approvato, solo che nella confusione ha detto approvato, che questo abbastanza chiaramente si sente dall'audio, a 4 emendamenti dell'opposizione, il che avrebbe fatto riaprire tutta la discussione della manovra, anche su Repubblica, votazioni sprint, pasticcio al Senato, la vice leghista sbaglia ed ha per approvati 4 emendamenti dell'opposizione. Ovviamente Rosi Mauro smentisce tutto e a pagina 2 del Corriere della Sera viene intervistata da Dino Martirano, E dice così: guardi, in 2 anni e mezzo di legislatura non c'erano mai stati incidenti durante i miei turni di presidenza e anche stavolta mi sono limitata a leggere lo speech preparato dagli uffici. E poi dice: c'era un caos incredibile, in aula volavano parole grosse, carte e anche libri. Ma che è? Sembra una lezione al liceo quando si contestava. In aula al Senato volavano parole grosse, carte e libri. Così dice la vicepresidente Rosi Mauro. Quando ha urlato vergogna, l'ho sfatto perché ho sentito anche una frase che non mi è piaciuta, un insulto nei miei confronti, ma non so di chi, non sono riuscita a individuare il collega. E poi questa cosa, le votazioni sono state regolari, io non mi sono sbagliata, ho sempre detto non approvato. Senatrice, guardi che su YouTube, eccolo qua, impazza il video, nel quale si sente chiaramente che lei dice ad alcuni emendamenti approvato. Ripeto, c'era un frastuono micidiale, i senatori saltellavano, aizzavano, urlavano. Ma non so, questa è una seduta del Senato. Dal primo banco mi hanno chiesto di chiarire, ricordo bene di aver detto non approvato. Vabbè, certo, poi almeno dice, certo, non abbiamo dato un bel esempio verso l'esterno. I senatori che aizzavano, saltellavano, lanciavano carte e libri. Effettivamente c'è una foto su Repubblica dove si vedono delle cartacce che volano e anche dei libri. Non ha tutti i torti. Ed è stato immortalato anche il ministro Bondi mentre fa il pianista. Sapete che il pianista è quello che vota per due, perché allunga la mano anche sullo scranno vicino. Ne parleremo alle 8:20. Ci sarà ospite l'onorevole il senatore Stefano Pedica dell'Italia dei Valori, che ha immortalato con un video Bondi. Ci racconterà se volavano cartacce, libri, aizzavano e saltellavano i senatori. Sta di fatto che anche Libero, somari in Senato, il sì alla riforma rischia di saltare. Rosi Mauro guida l'aula e per errore dichiara approvati alcuni emendamenti dell'opposizione. Poi com'è finita? Che Schifani, il presidente insomma ufficiale, è entrato, ha detto rivotiamo tutto. Sta di fatto che questo rallentamento rischia di far slittare, ecco perché dicevo forse viene approvata oggi, rischia di far slittare l'approvazione della manovra entro oggi. Forse si riesce entro oggi, ma forse no. Chi invece non sta perdendo tempo, e ieri l'ha tirato fuori il Messaggero questa storia, ma è una storia che ha dei lati ancora da approfondire, chi non sta perdendo tempo sono alcuni rettori. Sapete che ieri il rettore di Tor Vergata ha scritto al Messaggero, ha fatto, no. Sarà tutto regolare, non ha fatto nulla il rettore di Tor Vergata, mi correggo, però è stata promossa, diciamo così, come professoressa la nuora, Assunzioni Lampo, così gli Atenei battono sul tempo la riforma. Non è l'unico, perché anche il rettore della Sapienza, Luigi Frati, che è stato anche nostro gradito ospite di recente, eccolo qui, pare che abbia fatto... No, anche lui non avrà fatto niente. Nel senso, un figlio del rettore è stato promosso di grado a pochi giorni dall'approvazione di quella riforma che impedisce, insomma, vuole contrastare Parentopoli. I rettori e l'ombra della Parentopoli negli Atenei romani, sul Corriere, Frati ha 2 figli in università. E poi sul Messaggero, Assunzioni Lampo, così gli Atenei battono sul tempo la riforma. Claudio Marincola ritorna sulla vicenda di ieri di Tor Vergata. C'è chi addirittura ieri ha messo la prima pagina del Messaggero con il titolo "Il rettore assume la nuora", ieri girava Tor Vergata così, ma la notizia in realtà merita un aggiornamento. Oltre alla nuora e al figlio, nell'organico di Roma 2 figurerebbero, secondo fonti bene informate, anche 2 nipoti del Magnifico, il dottor Manfredi Tesauro, endocrinologo, originario di Palermo, come Lauro, che è il rettore, e il dottor Roberto Leo, cardiologo. Tanto che il rettore Lauro ha detto così: vedo che la mia famiglia si allarga. Questo è l'unico commento che ha fatto ieri, smentendo che siano suoi nipoti. Il rettore della Sapienza Frati invece non commenta. C'è anche un corrosivo articolo su di lui a pagina 3 del Fatto Quotidiano, Paola Zanca, frati, pater familias, sistema, moglie e figli all'università. I quattro componenti della famiglia insegnano tutti alla Sapienza di Roma, dove lui è il rettore. Luigi, Luciana, Paola e Giacomo, quando la sera si siedono a tavola, sanno di che parlare. Sono papà, mamma, fratello e sorella e lavorano tutti alla Sapienza di Roma. Di cognome fanno frati. Luigi il rettore, Luciana storia della medicina, Paola docente a medicina legale, Giacomo tra pochi giorni, eccolo qui la nomina che ha fatto discutere, siederà su una delle cattedre delle tecniche mediche assistenziali. Frati, tra l'altro, immortalato in passato dalle Iene, nel 2004, secondo il Fatto Quotidiano, firmò l'autorizzazione a se stesso per occupare a fini privati l'aula grande di patologia generale perché doveva celebrare lì il matrimonio di sua figlia Paola, e pensò bene di farlo all'università, praticamente casa sua. Vabbè, questa è la riforma universitaria, tanto che su questo il ministro Gelmini ha detto, e come darle torto, se i rettori si muovono con tanta celerità su questo fronte vuol dire che la mia riforma funziona, cioè, come dire, siamo in zona Cesarini, bisogna fare tutto prima che intervengano le nuove normative. La politica invece su cosa si anima? Beh, ieri Berlusconi era Matrix, il legittimo impedimento, ha detto, bocciarlo sarebbe indecente, la sfida ai giudici, tanto che qualcuno titola qualche giornale, non ricordo quale, in piazza contro i giudici. Ha parlato del legittimo impedimento, bocciarlo sarebbe indecente, non permetterò che venga fatto. Tra l'altro c'è il retroscena su Repubblica, pagina 3, di Francesco Bei, una sentenza già scritta, Berlusconi che dice è un'altra manovra per farmi fuori, ma stavolta non starò zitto. Chi non sta zitta, tra l'altro, questo è per quel che riguarda la politica, chi non sta zitta però è una delle sue figlie, Barbara Berlusconi. Bisogna prendere in mano Vanity Fair, che mi arriva sempre, e oggi in rassegna stampa non c'è, devo dirlo al mio amico direttore Luca Dini, però l'ho ritrovato, eccolo qua, l'intervista a Barbara Berlusconi su Vanity Fair. Tra l'altro un'intervista dove che fa molto discutere, perché parla anche per esempio degli scandali cosiddetti a luci rosse di Mara Carfagna. Intanto inizia così: non sarà venuto per farmi litigare con mio padre, così inizia la chiacchierata con il giornalista di Vanity Fair. Poi dice, parlando Barbara Berlusconi, parla del sindaco di Firenze Renzi, mi è sembrata una persona che vuole davvero cambiare le cose, paragona il padre a una pop star. Per la verità molto spesso non lo chiama mio papà, lo chiama Berlusconi. Questa cosa mi ha colpito abbastanza. A volte lo chiama mio papà, a volte dice Silvio Berlusconi. E poi eccolo qua, Mara Carfagna parla di maschilismo politico nei suoi confronti. Sentite Barbara Berlusconi, la cosa più grave è che Mara Carfagna trovi il coraggio di lagnarsi. A volte bisogna avere il pudore di tacere. Se si sente discriminata lei, che dai telegatti è diventata ministro, la cosa assume dimensioni ancora più grottesche. E ancora più avanti, sulle cosiddette showgirl portate in Parlamento, insomma Vanity Fair dice, scusi, è Silvio Berlusconi che ha portato le showgirl in Parlamento. E la figlia, vedere certe signorine girare in auto blu non fa bene all'immagine del paese, davvero si fatica a coglierne i meriti. E poi parla anche delle vicende, degli scandali a luci rosse, definisce così Vanity Fair. Sono vicende che mi hanno amareggiato, dice Barbara Berlusconi. Faccio fatica a rispondere serenamente, vorrei che vi provaste a mettere nei miei panni. È ovvio che non sono d'accordo con un certo tipo di condotta, ma devo anche credere alla verità di mio padre. Non ho la sfera di cristallo. Penso solo quello che mio padre chiama pubblicamente debolezze abbiano inciso sulla sua vita privata, ma anche sulla vita politica. Il mio dispiacere a volte diventa più forte perché non credo che Silvio Berlusconi Premier meriti certi trattamenti. Ma molto si sarebbe potuto evitare se non avesse trascurato l'idea che tutti siamo vulnerabili e che certi comportamenti possono rendere le cose inutilmente più fragili. Sarebbe ingiusto se della sua straordinaria vita politica si ricordasse solo questa stagione. E poi la domanda, sarà lei il prossimo presidente del Milan? L'unico presidente è Silvio Berlusconi. E questa intervista a Vanity Fair certamente fa discutere, perché Barbara Berlusconi soprattutto attacca Mara Carfagna e anche certe presenze nella politica. A proposito di politica, concludo la pagina con il gruppone dei pro Silvio che sono nati, lo dicevamo ieri, in 20 per formare un gruppo parlamentare, ci prendevano in giro, ma che volete fa, siete quattro gatti, così Francesco Pionati ieri ha presentato con Scilipoti, Razzi, Katia Polidori, la Siliquini che caccia i cronisti, fuori, tutti fuori, la Polidori che dice corro in aula a votare, ma c'è anche chi è già deluso, Nucara dei Repubblicani che non è stato invitato, Catone che dice non faccio parte del loro gruppo, Grassano che era alla Camera ieri ma ha detto ho da smistare la posta e quindi non si è presentato a questo gruppo, insomma sembra un po', ripeto, un truppone un po' sparpagliato. In ogni caso, nasce il gruppone dei pro Silvio e l'ex Italia dei Valori Razzi dice «Oh, con questo gruppo parlamentare sono resuscitato». La prima pagina del giornale oggi c'è il saluto di Feltri ai lettori. Vittorio Feltri che passa a Libero, torna a Libero, giornale da lui fondato come editore. Feltri che dice «Non lascio questa testata per motivi polemici, anzi sono grato a tutti. Il problema è che la sanzione disciplinare mi vieta di esercitare la professione fino al 2 marzo 2011. Che faccio intanto? Cambio mestiere. Mentre sconto la pena, il bavaglio, faccio l'editore. E poiché non posso farlo qui, mi trasferisco a Libero. Nonostante l'età, non amo il riposo. Se non lavoro, mi sento morire. Insomma, cari amici, queste dimissioni mi sono state prescritte dal medico. La salute è la salute». Tra l'altro c'è una risposta un po' così anche al vetriolo del direttore attuale Sallusti che scrive «Caro direttore, non conosco il tuo dottore. Avrei preferito ti fossi curato con altre medicine, ma non giudico e rispetto». E così faccio prezioso il tuo consiglio ai lettori, sui lettori, ti auguro una pronta guarigione, ti ringrazio di tutto quello che hai fatto per me e per noi. E Vittorio Feltri dunque che va a Libero. E prendo la prima pagina del Sole 24 Ore che come detto dedica il titolo principale all'occupazione che non riparte. Nuovo record infatti per la disoccupazione, in ottobre ha toccato l'8,7%, il valore più alto da inizio 2004, nonostante il ministro Sacconi sottolinei che è di 2 punti sotto la media europea, però i sindacati sono preoccupati, ma trovate tutti i dati con Cristina Casadei a pagina 2, la disoccupazione è record, soprattutto tra i giovani, il massimo dal 2004, 8,7%, mentre tiene ancora banco certamente la vicenda Fiat e accordo. Marchionne, l'occasione è ora. Nella prima pagina di Economia e Imprese sul Sole 24 Ore Andrea Malan racconta di come l'amministratore delegato del Lingotto abbia espresso la volontà ieri di firmare l'accordo prima di Natale. Un'ottima idea. Invito la FIOM a firmare, a assumersi le proprie responsabilità così come facciamo noi. Questo dice Marchionne aggiungendo non abbiamo il tempo per posticipare all'infinito una decisione, ci sono scadenze industriali che premono, investimenti che devono partire al più presto, per questo mi auguro che prevalga il senso di responsabilità anche nelle organizzazioni sindacali e che la proposta del 3 dicembre per Mirafiori venga accolta. E certo però fa molto discutere Mirafiori pronti all'accordo anche sulla Stampa dove c'è anche un colloquio breve con John Elkann, il presidente, al tradizionale appuntamento ieri di fine anno con i dirigenti del gruppo Fiat. John Elkann che dice le nostre radici sono in Italia, perché c'è l'allarme insomma di dire Marchionne vuole andare via dall'Italia, le nostre radici sono qui a Torino in Italia, questa è la nostra storia, la nostra forza, ma non è e non può essere un vincolo che ci preclude il futuro, siamo presenti, ci stiamo sviluppando nel mondo e vogliamo proseguire in questa direzione, questo ha detto il presidente John Elkann, quindi le radici sono in Italia ma il futuro è nel mondo, così il titolo della Stampa, mentre sul Foglio dove è da giorni che ci sono interviste su questa svolta dell'americano Marchionne o l'anarco americano, così viene definito dal Foglio Marchionne. C'è oggi un'intervista in prima pagina, un colloquio con Giampaolo Galli, di Confindustria, che il direttore generale di Confindustria, che dice Fiat, questo è il titolo, Fiat sbaglia quasi tutto. Per il direttore generale di Confindustria Galli, l'offensiva di Marchionne sulle regole suscita solo conflitti, prima investa e poi ancora sul modello americano. Guardi, dice Galli, non so cosa intenda quando taluni parlano di modello americano. Negli Stati Uniti i sindacati sono molto forti nel settore auto, mentre gli altri comparti o non ci sono o sono molto deboli. Quindi preferite il modello tedesco? Questa è la domanda. Abbiamo descritto la realtà, ma vorrei ricordare qualche fatto a chi ricorre a formule astratte. In Germania è prevista la clausola di opt-out, che consente di applicare un contratto aziendale in alternativa al contratto nazionale, ma la grande maggioranza dei lavoratori continua a essere coperta dai contratti nazionali. Questo direttore generale di Confindustria sul Foglio, sulla questione Fiat. A proposito di trasporti, non c'entra molto, cioè non c'entra con la vicenda Fiat, ma visto che si è fatta tanta polemica in Italia anche sulle autostrade bloccate, risarcimenti, non risarcimenti, eccetera, ma quello che sta succedendo in Europa con i voli e il caos negli aeroporti per il maltempo è davvero incredibile. Ancora oggi Nicole degli Innocenti da Londra per il Sole 24 Ore racconta la farsa di Heathrow. Affonda nella neve un aeroporto da terzo mondo nell'ex capitale dell'impero. Questa è la rabbia delle migliaia di passeggeri bloccati da giorni a Heathrow, superata solo dal senso di imbarazzo collettivo degli inglesi che non si capacitano di tanta colossale incompetenza. L'aeroporto più trafficato del mondo è rimasto paralizzato dalla neve per giorni, mentre tutti gli altri scali, tra l'altro, del paese ritornavano alla normalità. Lo stesso Premier Cameron, ieri, ha detto che è una situazione meteorologica, certo, assolutamente straordinaria, ma ha dovuto ammettere la sua frustrazione per i disagi a Heathrow, la lentezza nel riprendere i voli, una seconda pista d'atterraggio che è stata riaperta solo ieri, anche se da sabato non cade più la neve. Pensate che a Stoccolma ci vogliono 6 minuti per spalare la neve sulla pista, a Londra non sono bastati 3 giorni. Oh, a Londra! No, a Canicattì! Grandi amici quelli di Canicattì. A Londra! Ebbene sì, che troviamo ancora come segnalazioni conclusive? Beh, intanto si avvicina Natale, allora voglio citare questo: la corsa al regalo introvabile, a pagina 29 della Stampa, dai giocattoli all'elettronica. Anche quest'anno ci sono gli oggetti di culto che sono l'incubo degli shopper, che poi siamo noi gli shopper. Se non avete ancora aperto la busta che vostro figlio ha spedito a Babbo Natale, attenzione perché rischiate di correre al negozio più vicino e perdere fiato e avere fiato sprecato. Belli e quasi impossibili. Ci sono dei giocattoli che sono introvabili. Uno su tutti è il cavallino. Io, guardate, cioè, sarò serio a fatica. Il cavallino Toffy è un cavallino elettronico. Poi seguono la cioccoleria, la fabbrica del cioccolato di Hello Kitty, ebbene sì. E poi c'è Gommosella anche imperdibile di Hello Kitty. E poi c'è Gogo, un cucciolo che abbaia come un vero cagnolino. Ieri gli ultimi esemplari di Toffy, il cavallino, che voi cari genitori adesso pensate di prendere gli ultimi giorni e non lo troverete mai, facevano bella mostra di sé su eBay. Ebbene sì, il cavallino Toffy ormai, cari genitori, è introvabile. Se vostro figlio lo chiede, cercate una via alternativa per non farvi rovinare il Natale. L'unica consolazione, infatti, è online, dove c'è chi chiede se conoscete l'Isola dei Gormiti. Questa è mamma disperata sul forum, conoscete l'Isola dei Gormiti. Mi fermo qui, cavallino Toffy, cioccoleria e Gogo. Gogo, il cucciolo che abbaia come un vero cagnolino. Sinceramente no, ecco, Gogo no. Dopodiché cito solo per chiudere la Gazzetta dello Sport, perché vabbè, c'è tantissime pagine su Enzo Berzot, scomparso il grande Enzo Berzot, il CT Mundial dell'82 in Spagna, ma ormai è scelto per l'Inter, pare scelto, tutto dice Leo. Leonardo sarà al 90% il nuovo allenatore dell'Inter. Io da milanista davvero questa non la mando molto giù. Comunque, il GR, votate il sondaggio, case popolari ai Rom anche a Milano, che ne pensate? Tra poco.